Io le trasmissioni di economia e finanza, come la vostra, le odio. Però voi due siete troppo simpatici. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Mi ha appena suonato alla porta il postino che doveva consegnarmi una raccomandata e non sono potuta scendere. Ah, pensavo fosse e-commerce. Così volevo condividere con voi questo momento. No, quello l'altro giorno. Allora, non è vero. Abbiamo voluto allora, cominciare. Roma non fa la stupida stasera, sì. Perché abbiamo voluto cominciare così? Perché resta comunque critica la situazione dei lavoratori dello spettacolo. Ne abbiamo parlato settimana scorsa nel nostro mercoledì del lavoro. Si sono, sì, formalmente riaperte le attività culturali, le attività teatrali. Si è rialzato il sipario? Bah, sì, si è alzato, ma con gli ingressi contingentati, sono ad esempio le parole del direttore artistico del Sistina di Roma, con gli ingressi contingentati è di fatto impossibile mettere in scena, coprire le spese necessarie per le rappresentazioni. Ricordiamo che si può arrivare fino a 1000 partecipanti se la manifestazione è all'aperto, 200 se è al chiuso, naturalmente c'è sempre il rispetto della distanza di sicurezza, ci sono gli obblighi delle mascherine, insomma molti teatri stanno rimandando alla stagione autunnale nella speranza appunto che la situazione vada ulteriormente migliorando. Si parla, Deborah, di una perdita di circa 5 miliardi di euro per il comparto dello spettacolo. Quindi sì. No, ma la cosa interessante sì del Sistina è che appunto Massimo Romeo Piparo lo racconta alle agenzie in questi giorni, è che per tutti quegli spettacoli che sono stati annullati e per i quali erano stati venduti i biglietti, il teatro ha deciso di rimborsare ai clienti, agli utenti eventuali dello spettacolo, appunto agli spettatori, tutti i 12.000 biglietti che appunto erano stati venduti, invece di erogare loro appunto i voucher eventualmente per godere degli spettacoli prossimamente quando la stagione potrà ripartire pienamente. Quindi siccome qualche volta noi abbiamo parlato anche di queste situazioni, ecco, ci piaceva segnalare. Ci piaceva, era naturale appunto segnalare anche questa iniziativa del Sistina, tanto come dicevi tu, a testimonianza ulteriore delle grandi difficoltà di questo comparto che opera, in cui operano 170.000 persone complessivamente. Mauro. E allora invece lo faremo, sarà tutta una rappresentazione in streaming, quella che noi avremo tra 4 ore e 4 giorni, perché sono andato a controllare sul countdown prima di dirti questa cosa, Deborah. Sì, perché se tu vai sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e scegli lì in alto, proprio sui menu, iniziative speciali, potrai atterrare sulla pagina, mi dicono che in gergo gli informatici parlano così, atterrare sulla pagina Investire in formati Digital Round Table, che sarà appunto la nostra manifestazione, il nostro evento del 30 giugno di martedì prossimo dalle 3 alle 5 del pomeriggio, dalle 15 alle 17, e lì ti puoi registrare dalla pagina dove atterri, appunto ti potrai registrare, e sarà una cosa che quindi si potrà seguire comodamente in streaming, non avremo problemi di affollamento né di capienza massima, almeno per questa cosa. Speriamo anche di potervi offrire un po' di consigli appunto per questa sorta di edizione speciale di Investire in formati, il nostro appuntamento del giovedì, che ha voluto convocare, abbiamo voluto convocare, Deborah ed io, una nutrita schiera di esperti, docenti universitari, professionisti del risparmio, insomma, così da poter chiedere loro: ma che facciamo con questa crisi, con questa botta del coronavirus? E vedremo che cosa hanno da dirci. Ti sei già prenotata? Ah no, ma tu, Deborah, puoi intervenire lo stesso, ti aspettiamo lo stesso. Ma magari per fare il numero mi iscrivo anche io, così almeno tanto per fare il buon esempio, ecco. No, non vorrei che fermassero all'ingresso chiedendoti: ma lei guardi che deve seguire in streaming la cosa, e dopo diventerebbe un po' un pasticcio, mi lasceresti sul palco da solo. Di che parliamo oggi? Mi vesto da conduttrice. Allora, parliamo, prima abbiamo parlato di teatro, di intrattenimento, proseguiamo un pochino su questo filone, parliamo delle nostre vacanze, per la verità, almeno un tema a settimana da qualche tempo, una volta a settimana da qualche tempo stiamo trattando questo argomento perché abbiamo appunto più spesso parlato in particolar modo di tutti quei voucher riconosciuti alle persone che hanno rinunciato alla propria vacanza, che però appunto fanno anche fatica in realtà a spendere, e in realtà le compagnie aeree per esempio erogano i voucher, non restituiscono gli importi per voli pagati, insomma ci sono ancora tante problematiche nel comparto viaggi e turismo. Oggi vediamo un po' se a partire dal 1 luglio funzionerà meglio il cosiddetto bonus vacanze, questa cifra che viene promessa alle famiglie italiane che appunto vorranno passare le loro vacanze in una struttura italiana naturalmente, ma per poterlo chiedere intanto bisogna avere determinati requisiti reddituali, in particolar modo in termini di ISEE, ma poi c'è una procedura un pochino complicata anche per chiederlo, perché bisogna farsi l'identità digitale e poi non tutte le strutture italiane in questo momento sono proprio nelle condizioni di farlo chiedere appunto alle famiglie che lo vorranno, per cui bisogna fare anche da parte nostra un po' di chiarezza, cercare anche di capire le difficoltà degli albergatori nel dare questa possibilità ai turisti, e quindi direi che stamattina abbiamo dovuto convocare ancora una volta un paio di esperti per darci tutte le istruzioni del caso. Esperti come sempre di valore mondiale, così come di valore mondiale sono la spumeggiante Laura Faggindi là dal vetro, che è insieme a un entusiasmante Carmelo Lauricella questa mattina. Naturalmente sempre da remoto ci guida e ci guarda il corroborante Marco Lombardo, cara Debora. Abbiamo un pochino di cose da dire in breve, cioè il nostro giornale radio del risparmio. Prima però vi ricordo i numeri di telefono se siete interessati o volete darci delle testimonianze, anche lasciarci dei messaggi vocali alle nostre centralini. Allora 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, parliamo di bonus vacanze. SMS e WhatsApp li riceviamo al 349 238 6666. Questo stesso numero è anche utile se volete lasciare qualche petizione, perorazione, lamentela, complimenti per i conduttori, non complimenti per i conduttori, dicevo, messaggi vocali che poi noi inseriamo nella nostra serie Dillo a due di denari. Vi ripeto il numero 349 238 6666. E adesso, se non è troppo disturbo, Carmelo, gradirei avere una sigla per il giornale radio del risparmio. Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. E magari sono certa che lei vorrebbe che la sua dichiarazione di questa mattina passasse probabilmente alla storia come il nuovo Whatever It Takes, quello che aveva invece pronunciato Mario Draghi, del quale abbiamo parlato ieri perché questa espressione finisce direttamente sulla Treccani, ma stamattina invece Christine Lagarde ha detto un'altra cosa in un summit appunto che è in corso quest'oggi. Tra l'altro, perché vogliamo iniziare con questa notizia? Proprio per rimarcare ancora una volta che saranno alcuni questi dei temi che affronteremo nel nostro Investire Informati in versione digitale martedì prossimo dal Sole 24 Ore. La Banca Centrale Europea, ha detto poco fa Christine Lagarde, insieme alle altre banche centrali globali è pronta a dare una risposta imponente di fronte alla crisi economica innescata dal Covid, incluso un allargamento ulteriore degli asset accettati come garanzie a fronte della liquidità erogata. Ha detto anche un'altra cosa rassicurante Christine Lagarde, che per la verità proprio in queste ore si scontra invece con le considerazioni che stanno facendo i medici, i virologi, gli esperti scientifici sulla pandemia, perché avete sentito poco fa anche nel giornale radio, c'è un grande timore che in realtà in autunno possa ritornare una recrudescenza importante che Dio non voglia, appunto perché sappiamo quello che provoca tutto ciò. Lagarde ha notato che probabilmente abbiamo passato il punto peggiore della peggior crisi in tempi di pace, ma la ripresa sarà particolarmente complicata, discontinua e disomogenea appunto fra i paesi. E quindi, caro Mauro, anche questo è un tema che ci portiamo, direi, dritti dritti martedì con noi. E allora, in attesa di martedì, vi do qualche notizia, una buona e una cattiva sulle bollette. Ve l'avete probabilmente visto sui giornali, l'avrete già sentito, ma diamo qualche precisazione in più. Perché ARERA, l'autorità appunto che regola energia elettrica e gas, ha segnalato gli andamenti per chi sta nel mercato a maggior tutela, quindi non è ancora passato al mercato libero, cosiddetto. Allora, per chi sta in questo mercato si prospetta da una parte un ribasso e dall'altra un rincaro. Vado con ordine: nel terzo trimestre del 2020 si attende per la famiglia tipo 1 che sta nel mercato maggior tutela un calo per la bolletta del gas, meno 6,7%, un rialzo per la bolletta dell'elettricità, più 3,3%. Perché aumenta la bolletta dell'elettricità? Perché ci sono costi per il funzionamento del sistema, anche se mi ricordo bene il cosiddetto dispacciamento. Insomma, sono aumentati questi costi, si aumenta di conseguenza la bolletta, sempre ricordo, non per chi sta già nel mercato libero. Questo segue i forti ribassi del secondo trimestre, che invece aveva visto dei cali addirittura a due cifre. Era scesa del 18,3% l'elettricità, del 13,5% per il gas. Da mercoledì prossimo passiamo invece a un ulteriore ribasso per il gas e a un rialzo per l'elettricità, cara Debora. Allora, non vorrei essere insistente sull'argomento, è solamente un caso che abbiamo ancora una notizia, ancora una volta sarà il caso appunto di portare con noi martedì prossimo ad Investire Informati versione digitale, perché sarà con noi anche Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Tra poco, alle 12, inizia un altro webinar organizzato dalla Banca d'Italia, in questo caso, dove vengono presentati i risultati dell'indagine della Banca d'Italia nel 2020 sull'alfabetizzazione finanziaria degli italiani. E allora, abbiamo solamente poche notizie in anteprima, ma quelle che abbiamo sono ancora una volta non proprio confortanti, perché l'Italia risulterebbe ancora in una posizione di svantaggio nel confronto internazionale. L'indicatore che viene elaborato, appunto, e presentato questa mattina dalla Banca d'Italia include i punteggi di tre sottodimensioni che vengono appunto analizzate: la conoscenza dei concetti di base utili a fare scelte finanziarie, il comportamento, come le persone gestiscono le proprie risorse finanziarie nel breve e nel lungo termine, e l'attitudine, l'orientamento degli individui al risparmio, soprattutto di tipo precauzionale. Allora, nonostante le conoscenze finanziarie siano piuttosto cresciute rispetto al 2017, quando questa rilevazione ha cominciato appunto a muovere i primi passi, continua a pesare negativamente una particolare arretratezza, dice la Banca d'Italia, nella componente relativa al comportamento. Nelle prossime ore ne sapremo qualcosa di più, magari inviteremo anche l'istituzione Banca d'Italia prossimamente a Due di Denari a darci qualche dato ulteriore su questa importante rilevazione, e poi ancora una volta ribadisco, ne parleremo sicuramente anche martedì prossimo. E speriamo martedì prossimo di non dover parlare del tonfo che in Germania sta assumendo proporzioni da far impallidire Lehman Brothers. Lo dico naturalmente facendo tutti gli scongiuri del caso. Si tratta di Wirecard. Wirecard è una società di transazioni finanziarie, società tedesca di transazioni finanziarie, ha registrato un ammanco di cassa da 2 miliardi di euro per utilizzo indebito e fraudolento dei fondi asiatici, e ha dichiarato quindi l'insolvenza. Ovviamente il mercato non l'ha presa benissimo, anzi l'ha presa malissimo, il titolo è subito crollato. Mi pare, Debora, ma chiedo a te che sei più attenta frequentatrice dei mercati finanziari, che fosse quotato a Francoforte questo titolo Wirecard. Assolutamente, era sul principale indice, sul DAX 30, e tu pensa che qualche tempo fa questo titolo, questa società ha preso il posto di un altro colosso finanziario tedesco, Commerzbank, e quindi adesso sta portando invece i libri in tribunale. È un grande problema per la vigilanza tedesca questa questione, ma soprattutto quello che ci stavamo chiedendo, per la verità, anche con alcuni operatori finanziari, è cercare di capire, visto che era un titolo molto importante, se anche qualche risparmiatore pure in Italia lo avesse in portafoglio. Andate a dare un'occhiata adesso, se fosse all'interno di un fondo di investimento i gestori prendono le loro precauzioni per liberarsi di questi titoli e proteggere appunto il fondo da anche società che hanno delle condizioni problematiche come questa. Ma se si tratta di investire in un unico titolo, appunto, qualche volta i risparmiatori italiani purtroppo commettono questo errore di non diversificare ma di concentrare il loro risparmio. Andate a vedere se avete fatto anche una scommessa su questa società. società, perché adesso è una scommessa appunto persa completamente, visto che il valore del titolo è quasi completamente azzerato, ma soprattutto il gruppo sta portando i libri in tribunale, quindi un altro serpente corallino, oserei dire, Mauro. Ma sei pronto per quest'estate? Guarda, siamo prontissimi, abbiamo così tante cose che vorremmo chiedere di fare una cinquantina di puntate. No, scherzo naturalmente, però insomma, purtroppo c'è sempre da imparare, perché il serpente corallo, anzi soprattutto in tempi di pandemia, non solo in tempi di pandemia ma soprattutto in tempi di pandemia, è sempre in agguato. Allora andiamo a decifrare un po' meglio questo bonus vacanze, che dici Deborah? Io ricordo i numeri. Assolutamente. 800240024 per il numero verde, 349-238-6666, e poi vi anticipo, oggi è venerdì, i sonetti sono tornati già dal venerdì scorso e quindi anche oggi avremo il nostro momento poetico, questa volta grazie a uno dei vostri molti contributi. Andiamo con la sigla per il nostro argomento odierno. C'è un ascoltatore che mi scrive: ma insomma Deborah, c'è la PEC, e salutiamo Silvio, forse non lo so perché ce la vuole segnalare questa circostanza, lo sappiamo che c'è, in realtà non molti italiani ce l'hanno. Te la segnala perché hai appunto detto che non hai potuto ritirare la raccomandata, e lui si è preoccupato giustamente. Ah, scusa, vedi che avevo proprio già rimosso questa piccola disavventura sulla sigla del programma. Hai dovuto rinunciare al postino e allora giustamente no. L'ascoltatore dice: ma Deborah, fatti scrivere sulla PEC, sulla posta elettronica certificata. Silvio, ma guarda, posso raccontare quest'altra avventura? Sai che qualche tempo fa noi ce l'eravamo presa con i postini che appunto non suonano per verificare se i diretti interessati e i destinatari delle raccomandate appunto sono in casa, e spesso lasciano semplicemente l'avviso di mancato recapito perché appunto il destinatario non è stato trovato nella sua abitazione. Invece in queste giornate di lockdown in cui io lavoro da casa da tante settimane, una mattina sono andata ad aprire e il postino che mi sono trovata davanti mi ha detto: lo vede che le consegniamo? E io ho detto: guardi, dico, lei me la sta consegnando adesso, ma io, pur stando a casa da un sacco di settimane, le faccio vedere anche tutti gli avvisi di mancato recapito che mi sono ritrovata, perché nessuno si era preoccupato appunto di suonare alla porta. Per cui insomma, sicuramente ci sono professionisti in questo settore, qualcuno che ha un atteggiamento un pochino più leggero. Non facciamo di tutta l'erba un fascio, come sempre, però è ma un tema che peraltro aveva molto disturbato quando l'avevamo trattato. Ma nessun postino ormai, Deborah, si azzarda più a lasciarti l'avviso senza citofonare, senza suonare, senza telefonare, senza bussare alla tua anche porta. Anche sulla sigla del programma, esatto. Vedrai che sarà così per un bel pezzo. Allora, bonus vacanze da mercoledì è utilizzabile, mercoledì 1 luglio. L'Agenzia delle Entrate, spesso siamo critici, bisogna anche dire, quando mettono a disposizione le informazioni, sul suo sito agenziaentrate.gov.it ha messo a disposizione sia il provvedimento, sia una guida, sia una sorta di guida semplificata di vademecum per spiegare a cittadini e operatori del turismo come si potrà utilizzare da mercoledì questo bonus vacanze. Ti voglio dare un numero, non so se puoi giocarlo anche all'otto, se vuoi, il numero è 6915, no? Vedi tu in che serie. Si tratta del codice tributo, del codice tributo che gli operatori potranno utilizzare per recuperare questo bonus in parte. Ma ci spiega tutto molto bene, ci spiegano tutto molto bene i nostri ospiti, come sempre, di valore mondiale. Vado in ordine alfabetico per cognome per presentarli. L'avvocato Carmelo Calì, che è una voce nota ai nostri ascoltatori, legale di Confconsumatori. Buongiorno avvocato Calì. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E insieme all'avvocato Calì, il vicepresidente nazionale di Federalberghi, Marco Michielli. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, Michielli. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Deborah, da dove vuoi partire? Dal riepilogo, guarda, delle caratteristiche? Sì, vorrei cominciare subito con Michielli, non me ne vorrà l'avvocato Calì, ma l'avvocato Calì interviene spesso a Due di Denari, per Michielli è invece un debutto, e vorrei subito sentire quali sono le osservazioni delle strutture alberghiere italiane, perché so che hanno guardato con un po' di perplessità a tutta la procedura per consentire alle famiglie italiane che vorranno chiaramente godersi una meritata vacanza quest'estate in qualche struttura italiana hanno guardato con un po' di perplessità appunto alla macchinosità dell'operazione. Sarà ben contento Michieli che c'è il codice tributo appunto che è stato comunicato dall'Agenzia delle Entrate, per tutto il resto il funzionamento del bonus vacanze non è proprio una passeggiata di salute per gli albergatori. Come la state accogliendo appunto questa operazione, Michieli? Ci dica un po' insomma se vi state attrezzando per accogliere le famiglie italiane che so già stanno chiedendo molte informazioni su come poter spendere questi soldi messi a disposizione dallo Stato. Intanto lei ha centrato perfettamente il tema. Non siamo entusiasti del bonus vacanze perché consideravamo che dei contributi diretti alle imprese erano più proattivi ai fini di una ripresa o di una riapertura. Detto questo, siccome la cifra di Federalberghi è sempre stata quella di essere appunto proattiva, ci siamo dedicati alla diffusione massima nel nostro sistema dell'esistenza e delle modalità di uso di questo benedetto strumento, tant'è che sul sito Italy Hotels, che è il sito istituzionale di Federalberghi, stiamo caricando i nominativi, gli indirizzi, i collegamenti di tutti gli alberghi che si renderanno disponibili ad accettare il voucher, il bonus vacanze, per meglio dire. Quindi il nostro atteggiamento, ripeto, è proattivo. Poi la considerazione che è già stata fatta da chi mi ha preceduto è quella che in Italia purtroppo la geometria soffre eccezioni, perché la linea più breve che collega due punti non è una linea retta ma un arabesco. Qui hanno fatto una costruzione sinceramente sproporzionata, con controlli, richieste di codici, richieste di caricare degli applicativi sui telefoni e tutta una serie di cose che rendono oggettivamente abbastanza complesso andare a rivendicare un contributo di 150, 200, 300 euro. Spero. Allora, aspetti Michele, prego. Perché sono le 11.30 e diamo l'aggiornamento dei mercati finanziari. Qui la spiegazione, il riepilogo delle caratteristiche, quello che bisogna fare per utilizzare il bonus non è breve. Intanto ne approfitto per dire che comunque anche sul sito Federalberghi trovate tutta una serie di istruzioni, www.federalberghi.it, così come ci segnalava adesso il vicepresidente nazionale Marco Michielli. Deborah, è il tuo momento perché sono le 11.30 e vogliamo sapere che stanno facendo di bello, speriamo di bello, le borse. Viva la fatturazione elettronica! Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presento. Di denari. I postini non suonano più, lasciano solo gli avvisi sulla buca delle lettere. Deborah, sarà una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate. Io vorrei tanto usufruire del bonus vacanze e so che dovrei far l'ISE. Ho chiamato ieri un CAF e mi ha detto che se ne parla a settembre. Sorvolo sull'auspicio dell'ascoltatore su che cosa mi aspetta quando andrò a ritirare la mia raccomandata alla casella della posta, ve lo dirò lunedì. Sì, senz'altro. Ma guarda, questa storia dei CAF, voi a norme tributi ne sapete niente? Allora, i CAF sono abbastanza sotto pressione, ma guarda, abbiamo interrotto proprio il vicepresidente nazionale di Federalberghi, Marco Michielli, sulla, come dire, complessità della richiesta, perché ci sono una serie di adempimenti, di passaggi che deve fare il cittadino che vuole avere l'accesso a questo bonus, che lo ricordiamo dà diritto a uno sconto che può arrivare a 500 euro, parte da 150 per il singolo, la famiglia composta da un solo componente. Delle cose deve fare il cittadino, delle cose deve fare la struttura ricettiva. Effettivamente non è tutto così perfettamente intuitivo né automatico. Michielli, se vuole, come dire, riepilogarci lei i passaggi necessari, li percorriamo via via, insomma. Certo. Allora, con la premessa che mi sono fatto, immaginando questa richiesta, mi sono fatto una sintesi delle 20 pagine di istruzioni che sono pubblicate sul sito del Ministero. Io cercherò di essere più rapido possibile, spero anche comprensibile. Ho sintetizzato in sostanzialmente quattro passaggi. Il primo, uno qualunque dei componenti del nucleo familiare con l'applicazione IO, che è accessibile con lo SPID, una carta di identità elettronica, scusi se rido, ma francamente è imbarazzante la complessità di questa cosa, potrà essere presentata la richiesta di accesso alla procedura seguendo le indicazioni dell'AGID o del Ministero dell'Interno. Questo è il primo. Secondo passaggio, il sistema Pago PA della pubblica amministrazione, attraverso un servizio di cooperazione applicativa, verifica la sussistenza dei requisiti, l'ISEE famoso, e restituisce al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta. Tralascio il passaggio qualora la richiesta sia negativa, vado alla richiesta positiva. Se l'esito è positivo, Pago PA genera un codice univoco e un QR code che saranno utilizzati alternativamente per fruire dello sconto in commento, comunicando alle entrate lo stesso l'importo massimo spettante, i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare. Punto quarto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore, in questo caso l'albergatore, il codice univoco o esibisce il QR code al pagamento dell'importo dovuto al fornitore. A questo punto l'albergatore cosa farà? Si collegherà anche lui a un sito nel quale andrà a verificare che QR code, codice univoco, eccetera, eccetera, siano effettivamente spettanti a quella persona e questa persona abbia diritto ad avere lo sconto previsto dal bonus vacanze. Apro la parentesi. Se l'albergatore è preso che ha 25 partenze quel giorno, sicuramente non andrà a effettuare tutta questa procedura di verifica e controllo, per cui molto probabilmente rischierà anche di fare uno sconto a qualcuno che non ha diritto e per cui alla fine se li rimetterà l'albergatore. Detto questo, vabbè, l'importante è che sia oltre al danno e alla beffa e la sanzione per chi non ottempera in maniera rigida a tutti gli adempimenti, perché poi non che a voi faccia piacere dare uno sconto se uno non ne ha i requisiti, ma nella procedura bizzarra che è stata concepita ci mancava pure che si scivolasse in una sanzione, una punizione per chi compila malamente in sostanza tutta l'istruttoria. Esatto. E quindi abbiamo terminato le istruzioni? Le istruzioni io le ho sintetizzate al massimo. Più o meno, perché poi Deborah ci sarebbe la parte della struttura ricettiva, però io mi sforzo di riepilogare. Vi serve, se volete, chiedere all'albergatore, perché poi adesso andremo a vedere, non è detto che tutti gli albergatori, tutti i bed and breakfast forniscano, siano disponibili a fornire questo sconto, dico bene Michelli? Cioè qualcuno può non aderire. Ma io credo che alla fine la maggior parte degli alberghi, rispondo per quelli, non per i B&B, accetterà questa procedura. E qualcuno ha già dichiarato che invece non aderirà, magari strutture che fanno fatica ad avere tutte queste cose, fanno fatica a sopportare, strutture piccole penso, familiari, persone anziane, eccetera, che faranno fatica a sopportare questa complessa procedura e questi non la accetteranno, ma le assicuro che la stragrande maggioranza l'accetterà. Comunque, allora, cara Deborah, bisogna procurarsi l'ISEE, perché se hai più di 40.000 euro di ISEE non ti spetta lo sconto, quindi già quella CAF è la prima, permettendo, esatto, quindi c'è pure serve questo ulteriore ostacolo. Poi ti dovresti procurare la SPID o lo SPID, vedi tu come vuoi chiederlo, se con il genere maschile o femminile. Poi ti devi scaricare, qui chiedo conferma il sia a Michele che a Calì, e devi andare sul sito io.italia.it, scaricarti l'app, perché serve anche questa app, dico bene Michele? Certo. Perché da lì che compare il QR code, no? Che dopo deve essere sottoposto all'albergatore, immagino, per poter consentirgli di avere la conferma che siano tutti i requisiti. È come se fosse la certificazione che la pubblica amministrazione dà all'utente di avere i requisiti, non so, anche lì io la sintetizzo proprio in maniera estrema. Mauro, che dici? E poi ci sarà naturalmente tutta la fase da gestire con l'albergatore, come ci diceva Michelli. Io chiedo a Calì, scusi Calì, ma in quanto appunto avvocato della Confconsumatori, non è un po' troppo per iniziati, va bene che siamo tutti oramai telematici, veniamo da questo periodo di lockdown, abbiamo imparato a usare benissimo tutto quanto è digitale e smart, però forse così è un pochino un percorso tortuoso, mi permetto. Ma io rispondo una porta aperta, perché ritengo che con questo bonus in Italia si sia aperta ufficialmente la stagione della burocrazia digitale e purtroppo quelle che erano i lacci e lacciuoli che vincolavano i cittadini con le carte adesso hanno assunto le sembianze di internet, di online, di tutto quello che è digitale, purtroppo. Sarebbe troppo facile dire vogliamo vedere due persone anziane che devono andare in vacanza, mettersi a prenotare col sistema pubblico di identità digitale, come fanno, chi li aiuta, chi gli dà le istruzioni. C- certamente ci sono molti anziani che sono molto bravi a usare questi strumenti, ma la stragrande maggioranza è questa. Ma non ritengo che sia un problema generazionale, ritengo che ci sia un problema complessivo dei cittadini. Non ci si rende conto che ancora lo SPID è uno strumento utilizzato in misura inferiore da parte della popolazione. In ogni caso queste modalità rischiano di vanificare lo strumento, perché di fatto alla fine dico io qualsiasi cosa può andare a beneficio dei cittadini sembra la benvenuta, però se di fatto appunto le modalità sono delle modalità che inveniscono di fatto una fruizione, certamente, quindi bisognava andare a semplificare. E per quello che ho sentito anche dal presidente di Federalberghi, anche lui manifestava qualche perplessità, diciamo così. Perplessità. E quindi diciamo qui ci sarebbe un problema, perché anche cioè, il problema non è avere il familiare che ti aiuta a gestire questa cosa, non è avere il parente che ti aiuta a gestire queste cose, perché il problema è che devi rivolgere a certi altri, non è una cosa che puoi fare. Allora se il problema è che ti devi rivolgere ad altri, bisognava mettere in campo delle opportunità per consentire a chiunque di essere aiutato in questa gestione. Quindi questo rischia veramente, perché poi attenzione, è una opportunità che è entrata in vigore a ridosso dell'estate, quindi i tempi sono stretti. Certo. Quindi le prenotazioni, ammettiamo che chi ha prenotato già adesso vuole utilizzare questo strumento, sta partendo, non riesce a fare, ecco, si rischia un una serie di intoppi, certo. Poi diciamo ci sono anche una serie di cose che anche da questo punto di vista non vanno, a mio avviso, cioè nel senso che essendo in qualche modo uno strumento che va a favore di soggetti con un reddito certamente non alto, con un esempio indeterminato, è chiaro che ad esempio sono persone che, con tutto il rispetto per gli alberghi, non me ne voglio, però dico molti potrebbero scegliere di andare nei B&B dove poter risparmiare, dove poter avere dei costi inferiori, stiamo parlando anche delle famiglie, quindi è chiaro che una struttura quando vanno quattro persone, il B&B potrebbe essere una scelta più economica. Avvocato Galì, aspetti, la fermo perché siamo già in ritardo con la viabilità, ma prima della viabilità, come promesso, do lettura di un ditirambo, in questo caso, inviato da un geometra deluso, Lorenzo Posocco, che ringraziamo, vado ad interpretarlo, ed è abbastanza in linea con quanto stiamo dicendo, cioè con la difficoltà di relazionarsi anche con queste misure di aiuto. Ancora, ci sono cascato. Il decreto esiziale finalmente è stampato, ma a che vale? Ti ascolto, due di denari, quasi sempre a spiegare i mercati azionari, ma devi annotare, ancora un'attesa, i decreti attuativi. Raccolgo con calma l'offesa, cerchiamo di restare vivi. Sabina in cucina stropiccia le mani, il capo declina e attende domani. Parole a torrenti, benefici dardi, fallaci promesse crescenti in attesa dei vacui miliardi. Il grande Marx e persino Cassese rivedranno i falsi ancoraggi quando in vendita a Porta Portese d'Italia saranno gli stracci. Traffico! Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Due di denari. Sembra evidente che non vogliano che il bonus vacanze sia utilizzato su larga scala. Bastava non metterlo e si sarebbe risolto il problema. Cosa intelligente sarebbe che facessero questo buono vacanze valido per il prossimo anno, perché siccome ci si metterà qualche mese per ottenere tutte le carte, almeno varrà per il prossimo anno. Volevo sapere se c'ha un nome l'inventore di questa procedura per il bonus, le vacanze, giusto per sapere così la faccia, sapere qualcosa. Una roba così macchinosa, proprio siamo la follia. Secondo me è assolutamente chiaro che è fatto per non essere utilizzato, è semplicemente uno specchietto per le allodole del governo. Vabbè, la pensano in maniera molto chiara gli ascoltatori. Questa, lo ricordiamo Mauro, è la stagione della burocrazia digitale, come ha detto prima l'avvocato Carmelo Calì. È così, ma io volevo chiedere a Micheli, le strutture alberghiere potrebbero in qualche modo aiutare i clienti, i turisti, insomma, a richiedere questo bonus, insomma, estradarli, dare informazioni, lo stanno facendo. Voi già sul sito, ce l'ha ricordato, avete messo a disposizione il riepilogo, i vari passaggi, la documentazione. È proprio la singola struttura alberghiera? Premesso che sono 33.000 gli alberghi in Italia, quindi con condizioni diverse, con disponibilità ovviamente di tempo anche diverse, stiamo facendo, direi, generalmente il possibile per aiutare queste persone. Il tema è che per richiedere lo SPID, per richiedere tutti gli altri accidenti che bisogna richiedere, scaricare l'app, eccetera, eccetera, non può essere in remoto una segretaria d'albergo che aiuta le persone, purtroppo. Noi diamo indicazioni in questo momento, le telefonate sono numerose, devo dire, di richiesta appunto di informazioni. Se vuole, il cotè divertente della cosa è che ci sono clienti che si offrono di spedirci il loro ISEE, le mando l'ISEE, no, guardi, non ce lo faccia mangi, lei non ci riguarda. Allora, grande la confusione sotto il seno. Adesso io spero che queste 20 pagine, perché poi oltretutto, scusate, è il tema che uno che vuole approcciare questo strumento deve prima andare sul sito del Ministero, scaricarsi le 20 pagine di informativa per poter sapere che cosa deve fare, quindi c'è un ulteriore prepassaggio, diciamo. Gli albergatori, ripeto, possono solo gentilmente rispondere, dare delle informazioni, ma non possono coadiuvare fattivamente le persone che debbono accedere a tutte queste complicazioni, lasciatemelo dire, perché sono tutte procedure individuali, con la propria identità elettronica, con il proprio telefono, con le proprie cose. La speranza, non le nascondo, è in una resipiscenza della pubblica amministrazione che semplifichi questo strumento, perché lei pensi che articolato con l'80% di sconto te lo fa la struttura alberghiera, che poi andrà a prenderselo dalle future tasse. Vi faccio notare che in questo momento il problema più grosso che hanno le nostre strutture è quello della liquidità, quindi privarsi pur di quella pur piccola liquidità è un problema. Detto questo, l'altro 20% te lo devi scaricare tu l'anno prossimo. Io, per esempio, che non sono in grado di farmi la dichiarazione dei redditi da solo, in Italia non è in grado nessuno. Ne ho un CAF, mi costerebbe di più di commercialista che i 100 euro di detrazione fiscale. Beh, per un singolo effettivamente, perché se abbiamo una 150 euro, stiamo parlando di un 120 effettuato subito come sconto e 30 euro da riportare sull'IRPEF prossima. Mi costa di più di commercialista, ecco. E quindi spero in una resipiscenza, in una semplificazione di questo strumento, anche perché io vorrei ricordare che questo strumento complessivamente sulla manovra cuba 2 miliardi e 4. Ora, come ho detto in premessa, 2 miliardi e 4 date agli operatori sarebbero stati un parziale ristoro di tutti i problemi che abbiamo incontrato nei 3 mesi scorsi e che incontreremo nei 4-5 mesi prossimi. Allora, prego. No, è che siamo in chiusura, siamo agli ultimi 20 secondi. Io volevo consigliare a tutti gli ascoltatori interessati di armarsi di pazienza provare a chiedere questa cosa. Abbiamo capito che dalla voce del vicepresidente di Federalberghi la procedura, gli alberghi sono disponibili ad aiutare ma non possono materialmente sostituirsi ai clienti. Carmelo Calì pure ha segnalato le perplessità dei consumatori, della Conf Consumatori. Che dire, Deborah? Speriamo in un ravvedimento, sì, operoso, come assolutamente, dire. Esatto, per dirla in termini fiscali, volevo solo segnalare che a noi arrivano tantissime domande che giriamo ai nostri esperti di consumerismo e a cui diamo risposta su questo tema sul nostro sito Iniziative Speciali di Radio 24, Homo Covid. Una delle tante domande che ci sono arrivate chiedeva se il bonus vacanze copre anche spese di ombrellone, pranzi in ristoranti, accessi ai parchi. Abbiamo chiaramente detto di no, perché il bonus vacanze è legato solo al pernottamento e quindi qualunque spesa diversa non può rientrare ed è utilizzabile solo nelle strutture ricettive aderenti all'iniziativa. Sarebbe anche utile avere una bella lista di tutte le strutture aderenti all'iniziativa, quindi così almeno non cominciamo a fare 2000 telefonate per capire se la struttura che ci piace aderisce o no. Facciamo un percorso un pochino più semplificato, quindi do anche questo suggerimento se qualcuno mai lo volesse cogliere. E tutto ciò chiarito, buona domenica.